Sì, semplicemente insieme, ben trovati, buon pomeriggio, siete in diretta su CRM Più Radio, naturalmente all'interno di Semplicemente Insieme, in compagnia di Jerry e anche oggi di Giuseppe. Ciao Giuseppe! Ciao a tutti, ciao ai nostri ascoltatori, come va Jerry? Bene, bene, visto che bella giornata che c'è oggi? Una bellissima giornata, non si capisce se c'è caldo o freddo, però... Insomma, sì, viene voglia di uscire, di andare a passeggiare. Sì, i primi avvisagli, diciamo, della primavera. Ho fatto una passeggiata al lungomare di Cefalù. C'è gente già che fa il bagno. Ovviamente gente, insomma, straniera. Però, appunto, però sì, già, io non andrei a fare il bagno adesso. Ecco, guarda. Ma loro, per loro è già primavera, è già estate. Per loro sì, per noi ancora no. Ancora c'è freddino, freddino, sì, freddino, sì, sì, sì, infatti. Allora, noi terremo compagnia ai nostri amici all'ascolto sino alle 17 circa, sempre con tante novità, curiosità, notizie, gossip e tanto altro. E poi che dici? Ricordiamo i nostri intanto i numeri di telefono per poterci raggiungere, contattare, richiedere la canzone preferita. Certo, allora interagite con noi, potete inviarci un messaggio direttamente dal nostro sito crmhappyradio.it oppure inviateci un sms al 335 5637 251, oppure telefonate direttamente a noi, vi risponderà Jerry che è alla regia, 0921 92 32 92, oppure ancora ricordiamo ai nostri amici che possono seguirci in diretta streaming sul nostro sito che è www.crmhappyradio.it, oppure ancora Giuseppe, oppure cosa? No? Oppure possono seguirci naturalmente sul nostro portale Facebook. Ah certo, sul nostro portale Facebook direttamente, inviateci i vostri post, siamo qui a rispondervi. Ho ancora il fiatone, Jerry, perché ho fatto praticamente... Sì, vabbè. Dovete capire che CRM... La vecchiaia, sì, la vecchiaia, sì, c'è una scalinata enorme e io, insomma, siccome sono sempre in ritardo, c'ho il fiatone. Ci siamo messi io e te, guarda, ci battiamo proprio... Siamo in ritardatari. Facciamo insomma. Una gara a chi arriva più tardi. Ecco. Vabbè, dai, cominciamo, che cominciamo. Dici? Sì, cominciamo e allora partiamo! a voi, lo ricordiamo naturalmente perché si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, giustamente siete con Semplicemente Insieme all'interno di Semplicemente Insieme in compagnia di Jerry, naturalmente anche oggi di Giuseppe. Esattamente, allora volevo anticipare qualcosina della nostra rubrica Epicinema per mercoledì. Avremo al solito i tre film più visti che non voglio dire al momento. No, non svegliamo nulla. Però, insomma, avremo anche la nostra corrispondente che ci farà una recensione su un film che ha vinto ben due Oscar. Però adesso ascoltiamo Lucio Dalla. Arriva ciao. Lui. C'è stato come un lampo lì, proprio in mezzo al cielo. Era blu cobalto liscio, liscio senza un pelo. Sotto era presente le luci del tramonto, la scia di un aereo faceva il più bello mondo. E lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane consolari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti. Il grande Lucio Dalla, il mito. Con questa ciao noi lo mandiamo un ciao a Lucio Dalla, appunto, che lo salutiamo, il ciao, cantautore Lucio. Che diciamo è scomparso un anno fa, proprio il 4 marzo. E proprio questa sera si assisterà ad un vero e proprio concerto evento dove la conduzione è proprio di Lucio Dalla, che rivive attraverso immagini di repertorio per presentare le sue canzoni e in alcuni momenti per cantare e suonare insieme ai cantanti che questa sera ci saranno sul palco. Fin dando un anno dalla morte dell'artista, la sua Bologna lo ricorda con uno spettacolo trasmesso in diretta su Rai 1 in prima serata. Le telecamere si accenderanno sulla sua Piazza Grande, a due passi dalla casa di Via D'Azeglio, per trasmettere un evento quindi musicale che sarà animato dallo spirito leggero di un festeggiamento di compleanno. L'evento, organizzato e prodotto dalla Ballandi Entertainment in associazione con FP Group, in collaborazione ancora con PHD, durerà quattro ore di concerto per il suo... Quattro ore di grandi artisti, veramente. Grandi artisti. Chi ci sarà? Lo vediamo un po' cosa... Chi? E allora, ci saranno ad interpretare i grandi successi di Lucio, Amici, da Ornella Vanoni a Renato Zero, passando per Carone, che è stato con lui... Sì, esattamente, ha duettato con lui l'anno scorso. A Sanremo, sì. Con il brano, te lo ricordi? No, non te lo ricordi, lo so. Mi ricordo che aveva una trama un po', come dire, particolare, un po' drammatica. Nini. L'andremo a cercare adesso. No, Nini. Esatto. Chiara Gagliazzo e poi il vincitore di Sanremo, Mengoni. Assente sarà De Gregori, Giuliano San Giorgi, Andrea Mariano e Emanuele Spredicato dei Negramaro. Con il trombettista Paolo Fresu canteranno Il Cielo e Felicità. Cosa sarà per Ron, Samuele Bersani e Luca Carboni. Quindi questa sfilza di artisti stupendi stasera su Rai 1 per celebrare il grande mito di Lucio Dalla. Bene, bene, grande, un grande, grande artista italiano che, appunto, ricordiamo, ci ha lasciato un anno fa. Comunque continuerà a vivere attraverso le sue canzoni. Assolutamente. Esatto. Il mito torna a vivere, però adesso rianimiamoci un po' con Madonna, Turn Up the Radio. Feel the wind in your face, in the skin, and it's here I begin my story.

over me too, yeah. Seems like my time has come and now I'm moving on. I'll be stronger. Set me free. Set me out this misery. Yeah, yeah. Show me the way. Show me the way. My life again. You can't handle no, me. No, no. E a proposito di Anastasia, dipende da ognuno. Se la chiama. Se lo dici in americano, Anastasia. Anastasia. Sì. O Anastasia. No, Anastasia. No, no, è brutta. Nah, Anastasia. No, non si può sentire. A proposito dell'artista, della pop star. Purtroppo le è stato diagnosticato il cancro al seno per la seconda volta dopo averlo sconfitto con successo nel 2003. E così iniziano le brevi righe su Facebook ufficiale della cantante che hanno colpito migliaia di fan, direi, insomma. Notizia molto triste. Annullati infatti all'istante tutti gli impegni e il tour europeo, Anastasia adesso pensa solo alla salute e chiede che venga rispettata la sua privacy, ovviamente. È giusto così. Di conseguenza è stata costretta quindi a cancellare tutte le date del suo tour, spettacoli e qualsiasi viaggio da oggi fino a nuova comunicazione. Anastasia dice in un'intervista appunto che era entusiasta di questo prossimo tour europeo che doveva partire il 6 aprile a Londra, quindi a breve praticamente. E inoltre dice: sto male perché deludo in questo modo tutti i miei incredibili fan che erano in attesa di It's Main's World Tour. Lei si spezza il cuore, quindi appunto ha dovuto annullare questo tour, però l'importante è che si riprenda presto e che torni nuovamente a farci ascoltare la sua straordinaria voce, no? Esatto, ma tutti i fan sicuramente staranno lì a sostenerla. Però Anastasia continuerà la scrittura e la registrazione del suo nuovo album, nonostante la sua diagnosi, e spera di programmare un nuovo tour il più presto possibile. Ah sì, lo speriamo anche noi, naturalmente. Lo speriamo anche noi, assolutamente. Ora più che mai è determinata a mettere in pratica il suo motto: non lasciare mai che il cancro rubi il meglio di te. Mm-hmm, esatto. Un bellissimo messaggio, perché è una cosa abbastanza importante. Anche insomma, a tutti coloro che comunque in questo momento, in questo periodo, stanno comunque come lei vivendo questa malattia, insomma. Momenti brutti, che sono, insomma. Esatto, quindi forza e coraggio, non abbattetevi mai, lottate sempre, sempre, sempre. Sì. Giusto, mai arrendersi. Assolutamente, non bisogna mai arrendersi, perché la vita è bella e quindi insomma bisogna lottare per essa. Allora andiamo, Marco Mengoni con l'essenziale. Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro e da giocare, beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. sarà Marco Mengoni con l'Essenziale, lo ricordiamo, vincitore della 63esima edizione del Festival di Sanremo. Grande Marco. A proposito di Marco Mengoni, beh, parte l'8 maggio da Milano l'anteprima della tournée appunto del cantante in 7 tappe. Dopo Milano, appuntamento il 18 maggio a Malmö in Svezia per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. L'Essenziale tour riprenderà poi a Torino, poi a Genova, Firenze, Padova, Napoli, per terminare poi il 29 maggio a Roma. L'anteprima dell'Essenziale Tour 2013 sarà l'occasione quindi per ascoltare live anche nuovi brani di Marco Mengoni contenuti nell'album Pronto a Correre, che uscirà il 19 marzo, quindi tra pochissimo, ed è già il primo album su Amazon in prenotazione. Il nuovo disco contiene 15 brani tutti inediti, prodotto da Michele Canova e registrati tra Los Angeles e Milano. Il disco sarà disponibile anche in versione deluxe, CD quindi più DVD. Bello! Che include un esclusivo video backstage con immagini e retroscene inediti dell'esperienza sanremese dell'artista. Beh, una grande carina questa cosa del DVD CD, CD DVD anzi. Sì, molto bella. È già possibile acquistare, cara Gere, il brano Non passerai, già al secondo posto nella classifica di iTunes, è preceduto da L'Essenziale, che mantiene la prima posizione dal primo giorno di pubblicazione, quindi sia il primo che il secondo posto per il nostro Marco Mengoni. Il 5 marzo sarà il turno di Bellissimo e il 12 marzo invece Non me ne accorgo, tutti scaricabili in anteprima da iTunes. Il 19 marzo, giorno dell'uscita del disco, chi avrà acquistato almeno una delle 3 tracce potrà completarlo ad un prezzo speciale. Bene. Molto bella sta cosa, veramente. Direi proprio di sì, insomma. Quindi mi raccomando, il 19 marzo non perdete l'uscita del brano di El Grande Marco Mengoni, una voce straordinaria. Ormai grandissimo, ormai veramente è diventerà ancora più grande, secondo me. Gli facciamo un in bocca al lupo. Bocca al lupo, in bocca al lupo Marco. In bocca al lupo Marco, sì. Esatto. Ok. Andiamo avanti, arriva lei, Maria Gaddu. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Timbalaê, quando vejo só beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo só beijando o mar. Pescador em mar e o anzol. Timbalaê, quando vejo só beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo só beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Thank you.

ho deciso di fermarlo per poterti avere ancora. Non dire una parola, sperando che non se ne accorga, ho strappato via anche l'ultima mezz'ora, pensando che sia l'unica maniera per sentirti qui vicino ancora. Sempre più stupido e testardo, come sempre torno a farlo, e di nuovo per fermarlo e poterti dire ancora. Nascondono ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Le senti riaffiorare quando tutto sembra aver trovato il giusto peso, aver la voglia di rubarla a tempo per potergli dare ancora un altro senso ancora. Stringimi allora. Per potergli dare ancora un altro senso ancora. Ed eccomi qui, Jerry, in compagnia di Giuseppe oggi. Ciao a tutti, buon pomeriggio di nuovo. Sei appena tornato? Okay. Sono appena arrivato, scusa. Sono tornato da un bel caffettino e... Sì, a volte ritornano. A volte ritornano. Abbiamo una notizia proprio di questo genere adesso. Ma sai, io l'ho vista poco fa, devo dire che è carina, diciamo, da... Sì, vabbè, sono le notizie che a te piacciono tanto, devo dire. Perché, scusa, che notizie do di solito io, scusa. Un po' macabre, come quelle che stai per dare. Ma non è vero, non è vero. Adesso diamo sta notizia e poi vediamo un po' se i nostri amici che in questo momento ci ascoltano, poi se hanno qualcosa da dire, magari ci chiamano, no? Commentate. Anche su Facebook potete commentare. Assolutamente. Praticamente, se... volete tenermi aggiornate, no? Con le ultime novità della musica, novità musicale, anche quando non ci sarete più. Beh, pensate che è nata in... non ridere, Giuseppe. Tremenda sta notizia, comunque. Pensate quindi che la musica sia una forma di comunicazione che trascende anche la coscienza come la conosciamo. Allora, forse fa per voi, per tutti, il Katakombu Sound System, sviluppato da un'azienda svedese, Pose. La Pose, senti, Giuseppe. Speriamo il più tardi possibile. Giuseppe ha sviluppato un sistema musicale dedicato al caro estinto. Il cuore del sistema praticamente è una bara Katakoffin dotata di un impianto stereo di alta qualità che esegue musica che riceve via wireless dal server, pensato per essere ospitato nella lapide, quindi Katatomb. Mamma mia. Questa è dotata anche di uno schermo LCD in modo che possa essere visualizzato il brano in esecuzione e quindi anche la playlist, ed eventualmente scegliere il brano da fare sentire al defunto. Inoltre la playlist è controllabile anche da remoto via internet e può essere gestita anche in modo collaborativo. L'azienda sostiene di avere in questo modo rivoluzionato il settore dell'intrattenimento post-mortem. Mamma mia, io non ci sto, Jerry. È troppo. Macabra questa cosa. Troppo macabra. Sì, cioè, dicevo che... Comunque la tecnologia va avanti, quindi... Va avanti, proprio molto avanti. Ci aspettiamo avanti. Anche questo, insomma, anche quando non ci saremo più, appunto. Vabbè, queste sono le notizie che arrivano. Io ho pensato di darla perché la ritenevo un po', sì, carina, sì, cioè, curiosa più che curiosa, dai. Carina no, curiosa, un po' curiosa. Comunque vogliamo uscire un po' fuori da questa... Sì, usciamo. Da questa notizia macabra, ralleghiamoci un poco e balliamo assieme a Nicki Minaj. Sì. E questa è per voi Starships. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found the Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a I'm on the floor. Anche se questa situazione un senso non c'è. succederà. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Questa canzone del grande Vasco, saluto Maria Luisa che ce l'ha richiesta, sempre qui allo 0921 92 32 92. Ciao Maria Luisa, saluta Giuseppe. Ciao Maria Luisa. E a proposito di Vasco, beh, il rocker di Zocca, beh, è tornato a farsi vedere dopo un lungo periodo d'assenza e anche questa volta l'ha fatto a suo modo, ovvero con un breve video in cui compare davanti al computer in attesa di sentire la sua canzone. Dopo il ricovero in autunno a Villalba il 18 dicembre scorso, Vasco aveva annunciato l'intenzione di fare qualche concerto nel 2013 e l'immagine in cui veniva immortalato il 10 gennaio nello studio di registrazione a Bologna lasciava quindi ben pensare che fosse all'opera. E infatti eccolo a distanza di quasi due mesi con la voglia di farsi vedere in forma e allegro mentre ascolta quindi qualche nota del suo ultimo singolo L'uomo più semplice. Lo conosce sta canzone? Sì? Sì, molto bella sta canzone. Devo dire che è molto curioso come Vasco comunichi, sì, ai suoi fan, diciamo, il suo stato d'animo. Perché quando stava male, non so se ti ricordi, Jerry, sì, anche attraverso Facebook, attraverso questi clip che lui fa su internet, comunicava insomma il suo stato, sì, sì, ai fan. Devo dire che è un nuovo mezzo di comunicazione che Vasco è sempre all'avanguardia, devo dire. Sì, grande, grande Vasco. Grande Vasco. Volevo ricordarvi intanto un appuntamento che a partire dalle 17.30 circa all'interno di CRM Happy Talent ci sarà un'intervista a Danilo Sacco, ex cantante dei Nomadi. I nomadi, i mitici nomadi, dai. Vabbè, no, o nomadi, basta. O nomadi, come, dipende come lo leggi, insomma. Esatto, vabbè, dai. Quindi non perdete questo appuntamento, 17.30 circa, all'interno di CRM Happy Talent. Quindi, ma state sintonizzate sempre con noi, naturalmente, sempre tutto rigorosamente in diretta. State attaccati a noi. Will I am, this is love. You love it like I love it, and you feel what I feel inside. If you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love. Funky Terminator. tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Girl, questa canzone degli One Direction salutiamo Marilena che ce l'ha richiesta, sempre qui in diretta. Fatelo anche voi, ricordiamo il sito che è il www.crmpradio.it, oppure ancora sulla nostra pagina Facebook. Se non siamo tra i vostri amici, contattate, cercate CRM Happy Radio e immediatamente sarete tra i nostri amici e potete commentare, insomma postare un po' tutto quello che volete. Bene, bravo, sei preparato Giuseppe. Esatto, sì. Ma adesso per sdrammatizzare, sì, cara Jerry, sì, ho una notizia un po', diciamo, del mio genere. Oh mamma, mi devo preoccupare Giuseppe, stai attento perché... Sì, ti devi preoccupare. Ah, mi devo preoccupare. Bene. Perché per tutti quelli che hanno problemi di flatulenza, sì, da poco, cara Jerry, c'è un nuovo prodotto che può risolvere il problema. Ah, bene. Che notizia interessante. Sì, sì, è interessante. Dobbiamo arrivare ancora alla fine. Ah. E senza richiedervi di migliorare le vostre abitudini alimentari. Si tratta di Flat D, da Flatulence Deodorizer. La forma è simile a quella di un assorbente e in effetti il principio è simile. Si tratta infatti di un filtro di carboni attivi che assorbe le particelle maleodoranti. Ah, sì, interessante questa notizia, devo dire molto. Gli assorbenti, se qualcuno vuole farsi un regalo, sono in vendita nelle farmacie americane, perché gli americani sono avanti, Jerry. Molto. Molto avanti, troppo avanti forse. Troppo, sì. E anche su eBay, e sono pensati per essere buttati via dopo l'utilizzo. Anche se non è chiarito se con un utilizzo vuol dire dopo un paio di giorni che sono indossati oppure dopo. Ma che notizie mi dai Giuseppe? Anzi, ci dai, ma dove l'hai presa questa? Cioè io di solito do le notizie carine, simpatiche, tu proprio questa non... Allora, io c'ho il mio sito personale dove vado a prendere le mie notizie, che sono al contrario delle tue, un po' così, un po' friccicherelle, un po' così. Ma... cioè voglio dire, una poi dice ma Jerry, ma tu fai dare queste notizie in radio? Beh, io non lo sapevo, ma ha detto è una notizia bellissima, guarda, vedrai, la do. Riderai tantissimo appena io do la notizia. Ah, ci picchia. Come che no, ho fatto lo scherzo, Jerry. Beh, la prossima volta prima la controllo e poi la dai, altrimenti bene, niente. Okay. Va bene, per questa volta passi, la prossima. Secondo me ai nostri ascoltatori è piaciuta tanto. Mo vediamo se ci sono commenti, messaggi, stai attento. Commentate. Sì, sì. Andiamo avanti, arriva lei Noemi e su questa canzone naturalmente saluto Maria che ce l'ha richiesta. Ciao Maria, un bacione. Ciao. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene. E ora sono qui che mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati, sono stati quasi eterni. Quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, che ho buttato via per niente. Sai, ti dirò dove vai, un'altra da me stessa. Sono un vuoto a perdere. Sono diventata questa senza neanche accorgermene. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Salutiamo Alessandra che ce l'ha richiesta sempre qui al 3355637251. Continuiamo. Volano, volano i satelliti sulle formiche, piano sbiadiscono le favole quelle più antiche, ma un arcobaleno dietro il finestrino riporta qui l'estate da bambino. Tornano, tornano le rondini dall'uragano e dietro il semaforo appari piano come una farfalla sopra la mia mano, inaspettata quanto attesa. Tu come un colpo di scena, scivola, scivola, un brivido. capire cosa è stato. Sembriamo una scintilla non ancora accesa, inaspettata quanto attesa. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi parla di te e tu con me. Come poterti dire che questa mia canzone già ti appartiene, mi lascia di te come in uno scherzo a carnevale, la curiosità di non capire. Prendimi, comprami con quegli occhi da diamante che ora scintillano e il resto ormai non conta niente. Riportami l'eternità in un attimo e sarò il tuo infinito in un istante. Bella questa canzone di Annalisa Scarrone, bella. Bella proprio lei. Io vabbè, lo sì, l'abbiamo capito che tu hai un debole per questa, io ho un questa debole cantante. Per lei. Annalisa, sono qua che ti aspetto. Sicuramente. Giuseppe, aspetta te, Annalisa, mi raccomando, non te lo fare scappare. Assolutamente, dai. No, no. Sai cosa, Giuseppe? Io ho trovato una notiziola adesso. Oddio. No, tranquillo, non è una cosa spero che. Spero che non ritorniamo sul macabro. No. Perché no. Io do notizie macabre. Macabre? No, assolutamente, guarda. Adesso vediamo, sono curioso. Allora, io ho trovato una notizia, che anche questa è una notizia un po' curiosa, non è macabra come dici te. Ecco, parliamo vediamo. Di borsette fatte in capelli umani. Oddio, ecco, ritorniamo sul macabro. No, dai, ascolta, prima ascolta e poi magari dici, no, è curiosa la notizia però. Ok, ascolta. Perché la designer Tae Seok Kang, sempre questi nomi un po' così, di origine sudcoreana, ma residente a Londra, ha creato, pensa un po', una collezione di borse realizzate appunto con veri capelli umani. Oddio. Secondo la designer, l'idea è una sorta di ricerca sulla sensualità del corpo umano e su come possa essere trasferita agli oggetti. Sì. E i capelli sono uno degli elementi che spesso incidono in maniera determinante su quanto una donna sia attraente o meno. Certo, i capelli sono importanti una certo. donna. Certo. Ovviamente l'uso di capelli umani, però, ha fatto strabuzzare gli occhi a molti che ritengono inopportuno l'impiego di materiali di provenienza umana. Direi. Ma i sostenitori dell'idea, però, hanno ribattuto che non è poi nulla di diverso dal portarsi addosso una borsetta fatta di pelle o pelliccia di animale, che anzi vengono uccisi per ottenere il materiale, contrariamente al caso dei capelli umani, si spera. Su ovviamente. Questo possiamo, come dire, lanciare un sondaggio. Sì. Sì, perché in effetti, come dire, portare i capelli di animale potrebbe anche avvicinarsi. I capelli di animale. Sì, vabbè, la pelliccia animale potrebbe anche avvicinarsi ai capelli umani. Quindi, non so, tu sei animalista, Jerry? Sì. Ti piacciono gli animali? Eh certo, come no? Hai voglia, quindi sono contrario un po' alle pellicce. Ti piacciono queste... gli umani? Gli umani, certo, sì. Allora la borsa di capelli umani è proprio indecente, guarda. Indecente. No, in effetti non, cioè non mi piace proprio. Poi tra l'altro ci sono delle immagini, no? Delle sì. foto e sono orribili. Le sto vedendo, le hai sto vista? Vedendo. Quella c'è col caschetto, il capello a caschetto su una borsa. C'è anche un bel caschetto su una borsa. Veramente è molto interessante, che sembra il caschetto poi dei Beatles. Vero, vero. Sarà forse intitolata proprio Beatles. Magari sarà stata fatta ispirata a loro. Ispirata a loro. Che ne sai? Che ne puoi sapere? Non lo voglio sapere, Jenny. Non lo vogliamo sapere. Intanto noi la notiziola carina, carina, curiosa più che carina, l'abbiamo data. Poi, grazie, Jenny. Cosa ne pensate voi, amici? Fatecelo sapere sempre qui. My hands, they're strong. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Cercava amore. Saluto Luisa, no, Barbara, scusa, Barbara che ce l'ha richiesta. Barbara, sì, sì. Ciao Barbara. Ciao Barbara. E allora, Giuseppe, ancora qualche minutino da trascorrere insieme a noi, all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente sempre rigorosamente in diretta. Ricordiamo, diamo qualche accenno riguardante mercoledì con il nostro Happy Cinema. Sì, vogliamo usare questo minutino per anticipare la nostra rubrica Happy Cinema. Ogni mercoledì ci saranno le tre posizioni dei film più visti durante il weekend. E voglio dare un'anticipazione, perché ci sarà la nostra Caterina, la nostra inviata speciale, che va a vedere sempre questi film un po' sulle righe, no? Un po' sui generis. E stavolta è andata a vedere un film che ha vinto ben due statuette. Ah, però. Due statuette dell'Oscar, ovviamente. Certo, non pensano statuette di cioccolata, scusa. Statuetta può essere, ne so, qualsiasi cosa. Statuetta dell'Oscar. Va bene, va. Va bene. Ecco, perché ha degli effetti spettacolari, infatti ha vinto un Oscar proprio per questo, per gli effetti speciali. Ed è Vita di Pi. Vita di Pi? Pi. Pi. che è praticamente questo ragazzo, non voglio anticipare nulla, no, però no, dal trailer si vede, ha a che fare con questa tigre in una India inondata, quindi una cosa particolare, insomma, particolarissima, ce lo racconterà Caterina direttamente qui su Semplicemente Insieme, certo, nella nostra rubrica Epicinema, quindi staremo ad ascoltarla perché lei ha questo questa capacità di raccontare veramente meravigliosa, per questo bene. L'abbiamo scelta, certo, ovviamente, e insomma avremo anche le posizioni prime dei film più visti, insomma, quindi lo scopriremo mercoledì, scopriremo un po' di cosucce mercoledì pomeriggio, sempre all'interno di Semplicemente Insieme, lo ricordiamo. Abbiamo il tempo di ascoltare un'altra canzoncina e poi, ahimè, dovremmo salutarci. Peccato. Vero? Peccato. Dai, abbiamo il tempo dell'ultima canzone, andiamo ad ascoltarla e poi naturalmente ritorniamo in studio per i saluti finali, ovviamente. Ok, allora andiamo, vai. Questa era l'ultima canzone in programma per oggi, all'interno naturalmente di Semplicemente Insieme, in compagnia di Jerry e anche di Giuseppe. Ahimè, mi è capitato. Peccato che è finita, Jerry. Peccato, vero? Vabbè, dai, ritorniamo mercoledì, sempre a partire dalle 15. Circa. Dipende dal nostro ritardo. Esatto. E poi naturalmente, come dicevamo poco fa, all'interno di Semplicemente Insieme vi ricordiamo l'appuntamento con la nostra rubrica Happy Cinema. Quindi per non perdete cinefili. Questo appuntamento. Inoltre vi ricordo un altro appuntamento a partire dalle 17.30 all'interno di CRM Happy Talent. Ci sarà naturalmente un'intervista a Danilo Sacco, per ex cantante dei Nomadi, quindi wow, continuate a rimanere sintonizzati con noi su 101.4 e poi naturalmente in diretta, potete seguirci in diretta streaming, ancora ve lo ricordiamo, sul nostro sito che è il www.crmhappyradio.it. Io rimango qui attaccato, Jerry. Sì, tu rimani lì, rimaniamo qua, noi seguiamo l'intervista e poi magari si va via. Assolutamente. E dici, sì, perfetto. E allora ci vediamo, ci risentiamo mercoledì. Mercoledì prossimo. Quindi vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di CRM. Sì, e vogliamo augurare anche una buona serata per tutti. Buona serata, naturalmente, ovviamente. Rimanete sempre in nostra compagnia. E come dico sempre io, fate i bravi. Ciao, ciao, ciao, mercoledì, baci. Semplicemente. Semplicemente.